Grazie comunque, si riparte con il ritmo, che il ritmo alla fine è il nostro modo per cavalcare l'attimo presente, no? Quello che lo chiamano l'attimo fuggente. Noi non lo facciamo fuggire, lo cavalchiamo proprio come attraverso il suono, attraverso il ritmo, attraverso il funky. Oh yeah, Italian original traditional funky sound. Sono qua, si va, si va, si va, si va, si va, sono qua, io sono qua, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, con l'alba dentro e il sole incorporato, che non aspetta e che non è aspettato, non desidera, non è desiderato, è sempre puntuale come il telegiornale, parasimpatico è come un animale, leggero, leggero, leggero, leggero, leggero, sincero, sincero, sincero, sincero, sincero, dimmi dove sei, fammi vedere le mani. Sono beato, senza futuro, senza passato. E ora solamente ora, come un gelato. E ora solamente ora, come un innamorato. E ora solamente ora, come nazione. E ora solamente ora, come passione. Funky beat, funky beato, funky beat, funky beato. Corpo senza un capo né coda, senza trucco né scarpe né vestiti alla moda, un corpo nudo e crudo come quello di Adamo e di Eva, niente credeva, niente sapeva. Un giorno senti uscire dalla radio rumore sotto forma di un suono, da un forte calore, senza capo né coda, proprio come era lui, come un fascio di luce negli angoli in cui c'è la stanza, una specie di sacra antichissima danza. Il ricordo di lui gli riempì l'atmosfera, fu in quel momento che sapeva davvero chi era, si sentiva beato per essere nato, quel suono era suo, l'aveva ritrovato. Sono qua, si va, si va, si va, si va. Potremmo andare avanti così per una settimana, senza cambiare accordo né tempo, come un film senza trama, un eterno finale che non si sa se finisce bene oppure se finisce male, nell'attesa restare a mezz'aria beati, come appena nati, come meravigliati, e come maghi, e come innamorati, e come innamorati, e come innamorati.